La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, che settimana sta settimana, cantava Raffaella Carrà se non sbaglio. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema di Radio 24. Che settimana, perché è una settimana in cui ci sono nomi grossi in sala, e per essere insomma l'ultimo weekend del mese, che poi scavallan con l'inizio di luglio, è sicuramente qualcosa degno di nota. Poi noi andremo a raccontarvi se e quali film vale la pena davvero andare a vedere. Però cominciamo con un film che sicuramente ha dei pregi, è un film che arriva dal Belgio, una storia, come dire, noir, tinta di nero come le ombre dei boschi delle Ardenne. Le Ardenne è il titolo, lo abbiamo fatto vedere alla nostra Chiara Pizzimenti. Vai, parti, vai! Muoviti! Cazzo! Dov'è tuo fratello? Sono le prime parole che si sentono pronunciare in questo film. Arrivano dopo una scena d'apertura che indubbiamente colpisce. Un uomo riemerge da una piscina in una zona elegante. È inverno, è vestito, ha una calza sopra la faccia. È un ladro, evidentemente. Le parole fanno capire che non doveva riemergere solo. Ho tenuto la bocca chiusa. Perché ti amavo. Ecco l'albero più bello del quartiere! Tutto bene andrà! E tutto bene andrà! 4 anni che non meriterà nessuno. 4 anni. Costantemente perseguitato da quelle merde. Dovevo pensare a te per andare avanti. E tu cosa hai fatto? Te ne sei fottuta. 4 anni dopo il fratello ritorna nelle cupe ardenne del titolo, titolo cui si aggiungono le parole Oltre i confini dell'amore nell'opera prima del belga Robin Pront. Gioca in casa con i colori grigi monocordi, aggiungendo musica elettronica, ansia da thriller, lo squallore della vita comune e anche, evidentemente, l'amore. Purtroppo non si può sempre scegliere. Non puoi dire che tempo farà. Parla con tuo fratello. O di chi ti innamorerai un giorno. Cosa è successo qui? Tutto a posto? Kenny, sono tutte troie. Allora è il momento di un buon pancake. Però puoi decidere se stare tutto il giorno a letto a lamentarti. Oppure puoi provare a combattere, a reagire minuto dopo minuto. Due rapinatori fratelli amano entrambi la stessa donna. Quello che va in carcere è il fidanzato, l'altro diventerà l'amore di questa donna. Questione di lealtà, quindi, amorosa e criminale. Il fratello fuggito vuole tenersi la vita normale che ha ritrovato, l'altro ha 4 anni di arretrati, di vita da riscuotere. Un regolamento di conti ci sarà per forza. Riferimento diretto c'è. Bullhead di Roskam, qui produttore. L'ispirazione viene da un testo teatrale di Jeroen Perceval. Qui fa uno dei due fratelli, quello che non va in galera. L'altro è Kevin Janssen. Il resto è cinema noir e thriller, con Caino e Abele come prototipi e Tarantino come modello. Gelo e crudezza ci sono già. Manca l'ironia dell'americano. Per essere un esordio, però, è più che buono e già premiato dalla critica belga. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Le Ardenne, questo noir belga che apre questa settimana. Storie, avete sentito, di amori, galera, tradimenti, rapine andate male. Noi diamo un'occhiata a quello che è successo lo scorso weekend al box office, che ha tanto in Italia quanto in America lo stesso dominatore. Si tratta di Transformers, l'ultimo cavaliere, Transformers 5 se volete dirla in numeri, che negli Stati Uniti ha già incassato quasi 70 milioni di dollari, in Italia quasi 2, e comunque ne è bastato per essere il film leader del weekend. Ma mentre in Italia al secondo posto tiene ancora duro La Mummia, al terzo I Pirati dei Caraibi, che ormai ha raggiunto 12 milioni di incasso globale, e poi Nerve, e per trovare la nuova uscita, l'altra nuova uscita, dobbiamo andare al quinto posto con Civiltà Perduta di James Gray, con incassi però in vero piuttosto modesti. Dall'altra parte dell'oceano, Wonder Woman è secondo, Cars 3 è al terzo posto, ha già raggiunto quasi 100 milioni di dollari di incasso. E poi il disaster movie squalistico, chiamiamolo così, 47 metri al quarto posto. E allora, questa è un po' la situazione. Noi adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade, poi torniamo perché dobbiamo parlare del primo dei film che, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, annovera un cast importante, nomi grossi in questo weekend. Stiamo parlando dell'infanzia di un capo con Robert Pattinson e Bérénice Bejo, fra poco. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24 RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. La Rosa Purpurea. Ancora qua, La Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, come promesso per occuparci dei primi nomi grossi di questa settimana abbastanza intensa sotto il profilo delle locandine al cinema, con l'infanzia di un leader, Robert Pattinson, protagonista al fianco di Bérénice Bejo per la regia di Brady Corbet. Sentiamo la clip. Is everything all right upstairs? He's been acting out of it. Why would you do that? He's only a little boy. It didn't actually hurt anyone, did he? We had quite a week here. Un assaggio dalla versione originale del film, che esce ovviamente invece con il doppiaggio, ispirato a un racconto di Jean-Paul Sartre, un classico che già ha avuto versioni, attenzioni cinematografiche, girato in 35 mm, quindi in pellicola. Racconta in quattro momenti, in quattro atti, la vita di un ragazzo, di un bambino, Tom Sweet, e la sua crescita ovviamente in questa villa nei pressi di Parigi, dove vive con il papà, consigliere del presidente americano, che sta lavorando a quelli che saranno poi i trattati di Versailles appena dopo la fine della prima guerra mondiale. Seguiamo appunto l'infanzia di un capo, seguiamo l'infanzia di un bambino che è votato per diventare qualcuno, per diventare qualcuno che comanda nella sua età più grande. Come dicevo, un classico di Sartre alle spalle, un'interpretazione cinematografica con l'esordio alla regia dell'attore americano Brady Corbett. Noi tiriamo in ballo Boris Sollazzo, che ritroviamo ancora per gli ultimi giorni a Ischia al festival, ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Ciao Boris, raccontaci un po' questa versione, insomma, del lavoro di Sartre sul grande schermo. Beh, è davvero un esordio impressionante, perché forse non stupisce più di tanto che Brady Corbet, che è uno che è cresciuto facendo film come Mysterious Skin di Greg Araki, e comunque in un milieu indipendente, anche fortemente anticonformista, possa avere questo stile, soprattutto a livello contenutistico, molto forte, molto anche ruvido e originale. Non scordiamoci che è passato, per dire, anche dalle mani di registi europei come Haneke, quindi si è sicuramente formato diversamente da molti altri attori statunitensi. Ed è interessante che qui in Italia arrivi questo film poco dopo I Figli delle Stelle, dove si vedevano l'adolescenza dei capi, e qui invece troviamo questo Prescott che entra di diritto in quella categoria di bambini del cinema che, più che darti tenerezza, ti inquietano. E in questa infanzia di un capo si capisce come la gestione della rabbia, o no, la non gestione della rabbia, sia uno dei primi passi dell'ipotetica leadership, così come anche l'uccisione dei padri. Cosa succede con questo film di Corbet? Che c'è, secondo me, una sintesi virtuosa tra quanto un film possa essere programmatico, e questo lo è fortemente, un film con una tesi molto profonda, sottostante, una tesi che potremmo definire psicanalitica politica, e quanto però il cinema, se maneggiato bene, possa anche essere semplicemente una grande storia, in alcuni momenti questo può apparire come un horror d'atmosfera, di quelli appunto in cui il bambino solo col suo sguardo, solo con i suoi atteggiamenti si incute inquietudine, in cui l'adulto apparentemente carnefice, soprattutto per tutti gli altri, diventa vittima totalmente ignorata dagli altri. E ne esce fuori un film molto originale, che magari ha delle rigidità in alcuni momenti, perché maneggia anche, seppur con estrema cura, argomenti di grande spessore, e ci fa di nuovo ricredere anche su Pattinson, che con un film di solito ci dice che non è un grande attore, e poi quando siamo convinti che non lo sia ci dimostra che comunque un po' di talento c'è. Devo dire che è veramente uno dei film più interessanti delle ultime settimane e che merita una visione, soprattutto per le riflessioni che incute. L'infanzia di un capo, abbiamo detto, tratto appunto da Sartre, il libro, la raccolta da cui era tratto era Il muro, era una raccolta, invece il racconto, la storia interna era quella Lucien Fleurier, questo era il nome della novella a cui si è ispirato poi Courbet per questo film promosso dal nostro Boris Sollazzo. Noi invece siamo arrivati al momento di cominciare a giocare insieme, e per farlo ascoltiamo la prima clip del film misterioso. Chi sei tu? Lo sai chi sono? Sei l'uomo che mi fa dormire. Dormire ci servirebbe. No, no, no! No, no! E allora, avete sentito un po' di atmosfera, un po' di colpi, un po' di gemiti? Di che film si tratta? L'avete indovinato? E allora scrivetecelo alla rosapurpura@radio24.it con il vostro indirizzo. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano di questo film, di cui più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Cambiamo film, cambiamo decisamente atmosfera con un film che comincia con un orario, 2:22, il destino è già scritto. Le tue braccia afferrano il cielo riflettendo la verità. Dio e gli uomini si incontrano nella nostra venerazione verso di te. È una specie di scherzo, vero? Come? Che cosa hai fatto? Ti sei messo a seguirmi? È così? Per favore, sta calmo. Da quant'è che mi segui? Che fai? Che sta succedendo? Dimmelo! Che cosa significa? Mi stai seguendo, vero? Perché lo stai facendo? Dimmi perché! Dimmelo! Qui siamo sicuramente in atmosfera, diciamo così, horror psicologico, thriller psicologico, se volete. Una storia che comincia in maniera anche abbastanza originale, la storia di un controllore del traffico aereo, quelli che stanno nelle torri di controllo negli aeroporti, che fanno atterrare e partire gli aerei, il cui lavoro, spesso sconosciuto, è un lavoro fondamentale, importante, e nel quale ci vuole una grande, grande concentrazione. Succede però un giorno che alle 2:22 il suo lavoro prende un inciampo, come un abbaglio, come un momento di appannamento della ragione, dal quale sta per scaturire un incidente aereo. Fortunatamente le cose vanno diversamente, ma il protagonista, Dylan Boyd, viene messo un attimo in un angolo. Gli dicono: guarda, adesso devi riposarti, star tranquillo e cercare di evitare, magari sei sotto stress, le cose che si fanno in questi casi. Se non che da quel punto in poi, da quel giorno in poi, alle 2:22 di ogni giorno succede qualcosa, seguendo un rituale peraltro che pian pianino Dylan si rende conto essere sempre lo stesso. E allora fin qui, come dire, il racconto di un film che penso possa generare grande attenzione, grande curiosità. Boris, poi succede qualcosa, succede a mio modo di vedere, almeno quando mi è capitato di vederlo, succede che il film perde per strada questa allure, questa forza narrativa, e si slabbra in una sorta di vagheggiamento new age che alla fine ti porta un po' da nessuna parte. Sono pienamente d'accordo. È un film sul fato che piano piano diventa un film sul karma. Possono sembrare due cose molto simili, di fatto invece secondo me è proprio una visione, un'angolazione completamente diversa, che come dici tu parte dalla ricerca di una possibile ciclicità del destino, per invece poi trovare una spiegazione che possa essere quasi pseudo-religiosa. E il film è molto strano, perché è un film che dà il meglio all'inizio, tutta la progressione di eventi e di immagini e di suoni che porta all'evento che poi fa scaturire questo giorno della marmotta, diciamo, possiamo definirlo così, che trova nel 2022 costantemente il suo apice, è davvero costruito molto bene a livello registico. Lui è un controllore aereo, sa vedere schemi dove altri riescono solo a vedere delle linee sul radar, è il migliore dei suoi e sta pensando ad altro, in parte, dall'altra parte è eccessivamente sicuro di sé e rischia di far scontrare due aerei. E quella scena è notevole, cioè forse la scena più difficile anche a livello tecnologico, loro la gestiscono, anzi lui, Paul Kerry, la gestisce benissimo sia visivamente sia narrativamente, e lì ti aspetti di essere di fronte a un film che possa decollare, scusate la metafora legata proprio agli aerei, e lì invece comincia, non dico a precipitare, ma piano piano, insomma, a tentare un atterraggio di emergenza, perché chiaramente il film diventa più complesso da gestire e soprattutto trattato in maniera semplicistica, perché il nostro viene sospeso dal lavoro, trova una donna che guarda caso era su uno di quegli aerei e si costruiscono diverse piste, tra cui quella sentimentale di un uomo che insomma rischiava di uccidere la donna con cui poi ha avuto un colpo di fulmine, e dall'altra appunto questo destino che in qualche modo si accanisce contro di lui in una reiterazione costante. Il problema è che poi non c'è solo di sbagliato nel film la gestione di questo karma ripetuto, ma anche proprio la gestione dei tempi dedicati a qualsiasi pista narrativa, perché seguendo un po' l'esempio di Eastwood, che lo fa molto meglio, però c'è anche tutta l'indagine sull'ipotetico scontro aereo, che prende uno spazio eccessivo rispetto sia all'interesse sia all'importanza dello stesso nella storia. Insomma, è un film sul tempo che, fatemelo dire, sbaglia davvero tutti i tempi. Gli schemi ricorrenti che tu pensi che esistano sono solo persone. No. Questa è una città con 8 milioni di abitanti. È ovvio che qualcuno possa ripetere le stesse cose. Hai sentito? Un cane abbaia. Un telefono squilla. Un aereo passa, un bimbo piange. Clacson. Il clacson. Siamo a New York City. Tutto questo succede e può succedere continuamente. E allora, questo era Il destino è già scritto 2:22, adesso linea alla regia, fra poco alziamo di nuovo l'asticella della popolarità dei nomi e forse incontriamo anche il miglior film di questa settimana, si intitola Codice Criminale, lo interpreta Michael Fassbender, fra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, purpure all'ascolto, con la terza parte della nostra trasmissione per parlare di altri due film. E anche qui, come dicevo, nomi alle stelle, perché qui Michael Fassbender, Brendan Gleeson in Codice Criminale. Poi però abbiamo anche da raccontarvi un film di Sean Penn con Charlize Theron e Javier Bardem. Insomma, come dire, poi i giudizi saranno quelli che sentirete, però, come dire, materiale di locandina ce n'è davvero tanto. Cominciamo però con Codice Criminale, ascoltiamo la prima clip. Tuo padre racconta la stessa maledetta storia ogni maledetta notte. Pensa veramente che ci beviamo tutte quelle stronzate? Il guaio è che Tyson ci crede. La prossima volta dirà che tu sei nato in una mangiatoia dalla Vergine Maria. Dicevi che era divertente. Finché non ha fatto finire dentro Brian. Ti dico una cosa, amore. Se lo scorda che se finisci dentro resto qui a sentirlo predicare in eterno. Hai detto che non dovevamo vivere con tuo padre per sempre. Codice Criminale, titolo originale è Trespass Against Us, con Michael Fassbender e Brendan Gleeson. Avete sentito una prima clip, si parla di un padre, proprio un rapporto padri-figli, se vogliamo, il centro nevralgico, la spina dorsale di questo film. Siamo in una comunità strana, una comunità di rapinatori e ladri professionisti che vive in una sorta di accampamento di roulotte. è una comunità che ha la struttura della famiglia mafiosa, no? Quella con il boss, il padre, appunto, Brendan Gleeson, Colby, del figlio Chad, Michael Fassbender, e dell'altro figlio, il bambino, Tyson. Un gruppo che, appunto, dedito a rapine e furti, nel quale c'è una evidente difficoltà da parte di Michael Fassbender ad affrancarsi dal capostipite Colby, che bene o male, soprattutto con una forza di persuasione psicologica fortissima, riesce a comandare su questo gruppo di persone. E però a un certo punto le strade un po' si dividono, perché tanto papà Fassbender vorrebbe per il bambino Tyson un'educazione scolastica, una vita normale, anche per la sua compagna la possibilità di andare da un'altra parte, semplicemente magari di agganciare la propria roulotte da un'altra parte, in un altro accampamento, così quanto il padre Colby lo tiene sempre dentro le righe, lo tiene sempre dentro il recinto, vuole che sia quella la strada e che non ce ne possa essere un'altra. Un giorno una delle rapine ha dei piccoli impedimenti, chiamiamoli così, e le cose scivoleranno verso un epilogo però molto molto bello, di cui ovviamente non vi dico niente. Boris, devo dire che è un film che ho cominciato a vedere con una certa diffidenza, mi sembrava che i primi 10-15 minuti girassero un po' a vuoto, poi però prende una sua strada narrativa, ha una sua poetica visiva, c'è la regia di Adam Smith con questa fotografia un po' desaturata, con questi silenzi di cui non ha paura, che dona al film un viatico verso un finale molto molto poetico, e devo dire che alla fine davvero per me questo è il film della settimana. Ma è un po' la differenza che c'è tra la nouvelle cuisine, che potremmo dire essere il cinema d'autore, e una bella spaghettata di mezzanotte che ti dà tanto gusto. Ecco, Codice Criminale è una spaghettata di mezzanotte, non vi aspettate piani sequenze, non vi aspettate straordinari virtuosismi alla regia, alla sceneggiatura. Aspettatevi solo però degli ottimi ingredienti assemblati bene e che vi daranno soddisfazione. Capisco anche la diffidenza che può nascere dal fatto che in fondo siamo di fronte a una serie di stereotipi, il buddy movie di due che insomma no, vivono da anni la stessa condizione, a un certo punto uno vuole affrancarsi dall'altro e dalla propria vita, l'Irish dramedy ormai è un genere, nel senso che quando ci sono degli irlandesi lo insegnano in tanti, tra cui James Gray, ovviamente si costruisce un certo tipo di racconto molto fondato sulla famiglia, sui valori, sulla solidarietà, che può diventare autolesionista. Però la forza è proprio quella, perché Adam Smith decide di non fare lo chef, ma di fare il cuoco, anche in maniera ingenua, non vuole mettere chissà quale finezza nella sua ricetta, vuole semplicemente che chi mangi si trovi sazio e felice. Scusate per questa metafora culinaria, però secondo me rende benissimo l'idea. E bisogna affrontare Codice Criminale, l'unica avvertenza che vi diamo è quella di affrontare Codice Criminale con la serenità e la disposizione d'animo cercare di divertirsi, di cercare di farsi coinvolgere, non di cercare il capolavoro. È fotografato molto bene il film dal finale, che è un fermo immagine come non si vedeva forse dai tempi dei Chips, per chi si ricorda la serie TV. È un atto registico di tale ingenuità che fa capire che il film cerca un'onestà totale, e che soprattutto, avendo due campioni straordinari alla recitazione come Michael Fassbender e Brendan Gleeson, si disinteressa anche un po' della sceneggiatura, non intende invadere con la regia la storia e lascia spazio a loro. Ha un Fassbender che ha un registro di espressioni straordinario, a mio parere, nonostante il suo talento incredibile, si stava un po' conformando a un certo stile che era il Fassbender style, e qui invece ve lo godrete perché ha davvero tutta una serie di registi. E a Brendan Gleeson, che usa quel carisma di cui parlavi nella storia, che è una sorta di capacità di persuadere anche con il ricatto morale, con il ricatto sentimentale, anche con la sua sola presenza riesce ad esercitarla anche come attore, riesce a riempire lo schermo come fa sempre e a trovare una splendida unione e una splendida sinergia con lo stesso Fassbender. È vero che il film è quasi tutto nella loro interpretazione, ma ci vuole bravura pure a metterli in campo, due campioni, a farli giocare al meglio. Quindi forse Codice Criminale non l'avrei programmato in nessun altro momento della stagione, forse saremmo stati più severi, Ma in questo caso è veramente uno di quei film che vai, ti guardi e te ne esci veramente bello soddisfatto, come magari appunto dopo una spaghettata di mezzanotte. Potevi venire a prendermi. Ho camminato 4 ore. Ti ho aspettato all'albero. Che è successo, figliolo? Sono arrivati in fretta, ecco cosa. Raccontami tutto. Ho ucciso Trousers. Chi? Trousers, il cane di Lovage. Ah, sì, sì. Di chi era quella casa? Ma che importa? Vieni, bevi un amaretto. E questo era il nostro film della settimana, la nostra scelta della settimana, Codice Criminale. Ora giochiamo nuovamente insieme, perché dobbiamo riconoscere il film misterioso di oggi. Era una scuola per ragazzi con esigenze speciali. Sì, bella definizione. C'era anche lui. Ah, sì, no, sono stato espulso diverse volte. Chi era questo ragazzo con esigenze speciali che è stato espulso dalla scuola ed è diventato qualcosa di molto molto grande? Scriveteci il titolo del film alla Rosa Purpurea @radio24.it. C'è il Blu-ray, anzi due Blu-ray che vi aspettano, e c'è una soluzione che vi daremo fra poco, prima di finire la trasmissione. E a questo punto invece dedichiamoci al prossimo film. Si intitola Il tuo ultimo sguardo. Siamo medici, siamo qui per curare i feriti. Dovresti cercare di dormire. Non sono stanca. Qui c'è amore. Tu sai che puoi andartene quando vuoi, ma è solo quando non puoi più andare via che lo capisci. Che ci facciamo qui? No, no, no, no, no, no. Ci serve il tuo aiuto lì dentro. Non li stiamo aiutando, lo capisci? Non fare come fanno tutti qui, non morire dentro. Questa non sei tu. Tu non sai neanche chi sono, lo vedi? Ok, fermo, noi siamo... No! E allora, mi è già salita un po' la glicemia dopo aver sentito questo trailer. Il film è Il tuo ultimo sguardo, lo dirige Sean Penn, lo interpretano Javier Bardem e Charlize Theron. Come dire, ci sarebbe tutto per gridare al film importante, invece l'importante ci sono solo le stroncature che questo film ha preso. Io un po' di diffidenza l'ho avuta quando l'ho visto uscire quasi a luglio, un film di Sean Penn con Javier Bardem e Charlize Theron. Qualcosa mi ha detto che forse non era andata, e dopo averlo visto devo dire che confermo. Storia ambientata in un campo profughi, una direttrice di una ONG, appunto Charlize Theron, e un chirurgo spagnolo, Javier Bardem, che si incontrano in mezzo a questa feroce guerra civile, e che cercano di portare a casa la propria pelle, ma anche quella delle persone alle quali si dedicano e hanno dedicato la propria vita. Come dire, il film dentro il campo profughi, dentro la grande crisi internazionale, è diventato anche questo quasi un sottogenere. Ricorderete per esempio Mighty Heart con Angelina Jolie. Però qui Sean Penn dimostra di non avere, come dire, la capacità di Michael Winterbottom, cioè quella di entrare dentro queste storie riuscendo a separarsi dal sentimentalismo, che invece, devo dire anche abbastanza sorpresa, Boris, sembra avere ammantato tutta questa operazione. Ma è davvero un film, per certi versi, secondo me incomprensibile, nel senso che ti fa dubitare anche delle prove migliori alla regia che ha avuto Sean Penn. Della Space, ovvero Il tuo ultimo sguardo, è una di quelle opere che pensavamo di aver dimenticato, intanto perché ricordando un altro film in cui c'erano Javier Bardem e Sean Penn, ci fa rivalutare Gunman. Non so se ve lo ricordate, il film americano dove c'era anche Jasmine Trinca e dove Jasmine Trinca era l'unica a salvarsi. Charlize Theron e Javier Bardem pensano bene di accettare un ruolo che nessuno probabilmente avrebbe avuto il coraggio di accettare se non fosse stato proposto da Sean Penn, perché sono i classici ruoli della vulgata occidentale sui disastri umanitari, appunto la direttrice dell'ONG, il chirurgo che si trovano di fronte e che hanno una storia e che vedono cozzare gli ideali l'uno dell'altro. Si fa anche fatica a capire perché. L'impressione è che semplicemente facciano a gara chi è più politicamente corretto, e poi purtroppo vince Sean Penn, che fa diventare il politicamente corretto uno stucchevole esercizio di forma che diventa irrispettoso e quasi politicamente scorretto nei confronti degli stessi drammi che racconta. è proprio l'atteggiamento turistico e coloniale verso certi temi. Però per carità, potremmo anche insomma, a livello morale, non si giudica un film a livello morale, potremmo anche passarci sopra, perché non era molto diverso da Constant Gardener come impostazione politica, però era un film dignitoso, era un film buono, era una storia che era bella da vedere e che era stata raccontata con professionalità. E qui invece scopriamo un Sean Penn che forse dovevamo intuire già da Into the Wild, estremamente semplicistico, incapace di trovare sia a livello visivo che narrativo un minimo di profondità, un minimo di originalità, tanto che per chi ha la mia età, ovvero 40 anni, sembra di vedere quei film che Canale 5 mandava il sabato pomeriggio, cioè quei melodrammi spinti fino all'estremo, in cui il tentativo di tirarti fuori le lacrime era così forte da indurti poi invece alle risa. Colpisce molto, devo dire, anche la pessima prova, non era facile perché non aveva una buona sceneggiatura, di Charlize Theron e Bardem, che oltre ad essere piuttosto sciatti nelle espressioni ed evidentemente non ci credono, sembrano proprio distratti, proprio perché probabilmente erano più portati a lavorare con allora il fidanzato e l'amico che con un regista positivo. Insomma, il mio consiglio, ve lo dico con tutto il cuore, è proprio evitarlo assolutamente, L'ultimo sguardo. E l'ultimo sguardo quindi di Boris Sollazzo sui film della settimana è impietoso, ma insomma tant'è, ne abbiamo promossi alcuni, ne abbiamo bocciati altri, come facciamo sempre. Boris, buone cose per questo gran finale di Ischia Film Festival, noi ci risentiamo la prossima settimana qui alla Rosa Purpura per parlare delle novità. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora linea alla viabilità, fra poco ci ritroviamo, dobbiamo parlare di musical, dobbiamo parlare di una nuova versione di Mamma Mia, lo faremo con l'interprete Sabrina Marciano, fra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Rosa Purpurea. Le note sono quelle inconfondibili di Mamma Mia, degli ABBA, note che hanno fatto ballare più e più di una generazione, a un certo punto sembravano svanite nell'aria e poi invece sono ritornate prepotentemente di moda, grazie anche a un musical, grazie anche a un film musical che è diventato una sorta di capostipite del genere, perché ci ha rimesso in circolazione una Meryl Streep canterina e ballerina come veramente non ci aspettavamo. E allora Mamma Mia ha ricominciato a girare nei teatri d'Italia anche sotto forma di musical live, lo rifà dal 7 di luglio al Lido Antico di Ostia e poi via via tutta l'estate per l'Italia, fino ad arrivare dall'autunno prossimo nei teatri delle grandi città. Noi abbiamo al telefono Sabrina Marciano, che è la protagonista di questa nuova edizione di Mamma Mia e che è nel ruolo che fu appunto di Meryl Streep. E allora, siccome assolutamente la vogliamo mettere a suo agio, le chiediamo: ciao Sabrina, grazie per essere con noi, cosa pensi debba invidiare Meryl Streep al tuo ruolo? Aiuto. Buongiorno a tutti. Intanto, sarà una responsabilità immensa, perché il film è stato ripreso dal musical, però appunto dopo aver fatto questo personaggio Meryl Streep, tutte quelle che faranno donna avranno una responsabilità maggiore, no? Sulle proprie spalle, per cui no, credo che non mi debba invidiare assolutamente nulla, anzi sono io che devo imparare tutto da quella donna meravigliosa, quell'attrice grandiosa che è Meryl Streep. E allora ti chiedo proprio questo, Sabrina, rivoltando la domanda che ovviamente era scherzosa, ma invece tu certo. che cosa hai preso? Tu sei un'attrice, come dire, di grande esperienza, però dove sei andata a pescare? C'è qualcosa che hai detto, questa gliela prendo, questa gliela rubo, questo atteggiamento, questo modo di fare, questo tono? Sì, devo dire che negli ultimi 2 giorni ho riguardato un pochino di più il film, perché all'inizio ho cercato di non farmi influenzare, anche perché comunque uno deve seguire le direttive del regista, che in questo caso è Massimo Romeo Piparo, che ha messo insieme un cast stellare, devo dire la verità, e quindi ci sta facendo fare un ottimo lavoro anche in prova. Poi però appunto l'avevo già visto e rivisto il film, figuriamoci, però appunto in questi ultimi 2 giorni ho detto fammi andare a riguardare quella meravigliosa donna, e beh, lei ha delle micro espressioni cinematografiche che logicamente a teatro non puoi riportare, perché ti devono vedere anche in 70esima fila, però sicuramente delle corde emotive, ecco, quelle io sto cercando di toccarle un pochino di più, sull'emozione, quello che riguarda appunto la commozione, ecco. Certo. Senti, presentaci un po' il cast. Hai detto un cast stellare. Chi c'è nel ruolo dei 3 potenziali papà? Allora, i 3 potenziali padri sono Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, e quindi già lì, ecco, quando io esco e li vedo tutti e 3 mi prendo un colpo, perché devo dire che è un bel vedere, e poi sono comunque 3 grandi attori. E anche grandi voci di cinema, devo grandi dire. Voci, sì, grandi voci del doppiaggio Luca, italiano migliore, assolutamente. Luca ha una voce veramente strepitosa. Come se la cavano però a ballare. Bene, dai, sudano un po'. E allora, grazie a Sabrina Marciano. Appuntamento dal 7 luglio al Lido Antico di Ostia per la nuova versione di Mamma Mia firmata Massimo Romeo Piparo, e ti aspettiamo nel prossimo autunno nei teatri del resto d'Italia. Grazie Sabrina. Grazie a voi, vi aspettiamo. Ciao. E allora, Mamma Mia il musical, una segnalazione, dal 3 luglio, ovvero da occhio e croce martedì prossimo, verranno distribuiti 3 film restaurati, 3 capolavori di Max Ophüls, il grande regista tedesco del cinema, soprattutto dagli anni 30 agli anni 50. I 3 film che verranno distribuiti sono Il piacere, Tutto finisce all'alba e Da Meierling a Sarajevo. Sono 3 capolavori restaurati che ritrovano la via della sala. Andate sul sito di La Bottanta, la distribuzione, troverete tutti i cinema che li proiettano. Io vi posso solo consigliare di andarli a vedere, perché sono capolavori davvero restaurati e ritrovati per il grande schermo. Facciamo un passo indietro di una settimana, sentiamo la clip del gioco con cui ci eravamo cimentati. La prima domanda che ci si pone è se sono cannibali. No, non sono cannibali. Il cannibalismo, nel vero senso della parola, implica un'attività tra specie simili. Ma queste creature non si possono considerare esseri umani. L'ascoltatore più originale era quello che ci ha scritto che sembrava la voce di Alberto Sordi, e quelli che invece hanno indovinato sono Massimiliano Cirillo di Carpi, provincia di Modena, e Giovanni De Benedictis di Bari, e saranno loro a ricevere il cofanetto davvero straordinario di Zombie, perché di questo si trattava, della saga di Zombie, cofanetto Blu-ray con 4 dischi, un booklet originale e le cartoline del film. Davvero un'edizione da collezione, quella che vi regaliamo in questa settimana e che ci facciamo raccontare in tutto il suo splendore da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, una versione supervisionata personalmente da Nicholas Winding Refn è forse l'edizione a un video definitiva del capolavoro di Giorgio Romero, prodotto da Dario Argento, che racconta la società consumista come un mondo di possibili morti viventi. Il box a 4 dischi presenta la European Cut per la prima volta in versione a tutto schermo, ovvero la versione realizzata da Dario Argento. La theatrical version, firmata da Romero da 127 minuti e proiettata nel 1979 nelle negli Stati Uniti. L'extender version, presentata al Festival di Cannes nel 1978, quindi tutte e 3 le possibili versioni di questo film, e un disco di contenuti extra con interviste a Tom Savini, ovviamente responsabile famosissimo degli effetti speciali, Refn, Argento e tanti altri. E poi trailers, spot TV, un commento audio di Claudio Simonetti, leader dei Goblin e autore della colonna sonora della versione europea, e completa il tutto un packaging sontuoso e un booklet di 24 pagine contenente foto e interviste e 5 cartoline da collezione, insomma un piatto veramente ricco. Questo per quel che concerne il nostro game della scorsa settimana, appunto il cofanetto di zombie. Segnalazioni TV dai palinsesti della prossima. Lunedì 3 luglio, I Cavalieri del Nord-Ovest, capolavoro western di John Ford, su Rai Movie alle 21.10. Sì, il premio Oscar per la fotografia a colori nel 1950 è uno dei il vertice della trilogia militarista di Ford, tra il massacro di Fort Apache e Rio Bravo. Gli indiani del Nord-Ovest vogliono muovere guerra e il settimo cavalleggeri è pronto a difendersi. Il capitano Britz, che aspetta di andare in pensione, tenta in tutti i modi però di evitare lo scontro e riesce a privare gli indiani dei loro cavalli, rendendo impossibili gli attacchi. Stiamo parlando di un capolavoro per come Ford ha saputo utilizzare il colore in funzione degli spazi, quelli meravigliosi della Monument Valley e soprattutto quelli interiori dell'anima dei suoi protagonisti. Qui dentro c'è veramente la battaglia, il tormento, ma ci sono anche tante tenerezze, momenti comici e la commedia della vita con i suoi momenti alti e bassi in un cinema veramente unico e irripetibile. Venerdì 7 giugno invece andiamo a recuperare il primo film della coppia Piazza Grassadonia, che è uscita poi recentemente a Cannes con Sicilian's Ghost Story. Si tratta di Salvo, il film del 2013 che li ha lanciati su Rai Movie alle 22.45 appunto di venerdì 7. Dopo aver subito un attentato, un sicario di mafia si vendica, fa tabula rasa dei suoi nemici, ridona persino la vita alla sorella cieca di una delle vittime, la porta con sé, la tiene prigioniera e la accudisce. Ma il boss della mala non è assolutamente d'accordo, per nulla. Piazza Grassadonia, coppia di autori italiani, esordiscono con un film di mafia che può sembrare un figlio del nostro western terzomondista e del polar marsigliese. Un cinema fatto di immagini e suoni prima che di parole, e dunque un cinema che può andare oltre il logos, la ragione, proporre un realismo magico e cupo, come se fosse una fiaba surreale, laconica, sotto il cielo scottante di Palermo. È un cinema che forse non piace a tutti, ma che è sicuramente unico, un'ipotesi di cinema italiano anche esportabile, locale, quindi molto locale, ma anche globale. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Prima però di salutarvi, vi devo una risposta, quella del game, del film misterioso di questa settimana. Si trattava di Logan Wolverine. I nostri amici vincitori saranno comunicati la settimana prossima, qui in trasmissione alla Rosa Purpurea, sabato alle 18. Un saluto da Franco D'Assisi.